Roma Trastevere, 2 gennaio 1974. Care Eleuterio, nel mezzo del cammin di nostra vita ci ritroviamo, la mia sorellina e io, nella casa che ci vide giovinette. Siamo tristi, Eleuterio. La nostra ultima lite mi ha lasciato meditabonda e, come dice mia sorella, che lo ha sentito dire e me lo ha ridetto perché anch'io lo dica, meglio sarebbe che io non t'avessi amato. Ma ormai è fatta e adesso sto piangendo a calde lacrime. E io penso che le lacrime sono la pioggia della tristezza. Penso anche che sei un ritardato mentale se ti ostini a vietarmi di culturizzare le masse, sempre tua. Roma Parioli, 3 gennaio 1974. Interminabile sempre mia. La casa che vide tua sorellina e te, giovinette, vi avrà certamente visto giocare la morra con Matusalemme. Quindi nel mezzo del cammin di nostra vita è una pia illusione. La prossima volta che riparlerai di culturizzazione delle masse, io parlerò di polverizzazione delle masse informi. E qualunque riferimento a te e a tua sorellina è puramente premeditato. Eleuterio. Poscritto. Il bambino della portinaia ha letto qualche cosa sul mostro di Loch Ness. Ne vorrebbe sapere di più. Manda qui tua sorella. Roma Trastevere, 4 gennaio 1974. Cari Eleuterio, sorianoide, sarebbe una specie di soriano probabilmente randagio. La mia sorellina ha letto la faccenda del mostro di Loch Ness, poi è scesa in strada e si è sfogata annodando tra loro un paio di lampioni. Dice che annodare un uomo a un lampione deve essere molto più facile. Ti aspetta. Ho messo in remagine la cometa nel presepe. E io penso che la cometa è il primo fiocco celeste inventato dal cielo per festeggiare una nascita. E sono sempre più convinta che culturizzare le masse sia un dovere civile e preciso, sempre tua. Roma Parioli, 5 gennaio 1974. Inspiegabile sempre mia. Nonostante la parentela che ti lega a tua sorella, comincio a sentire la tua mancanza. Da quando non ti vedo unta di crema, piena di bigodini e bardata di incredibili vestaglie, paura e pentimento non mi attanagliano più. E non ho più scuse per un whisky ristoratore. Ho voglia di bere. Torna. Anche perché qui succedono cose strane. Di fronte al letto, dove prima c'era una finestra, ora c'è un muro con un quadro appeso. Chi ha cambiato la disposizione del letto? Eleuterio. Poscritto. La portinaia ha risolto il problema del muro di fronte al letto. Ha rimesso i cuscini verso la testiera. Il muro è scomparso e la finestra è tornata davanti al letto. Roma Parioli, 6 gennaio 1974. Care Eleuterio, micione! Rieccomi nella casa che, essendo tua, possiamo dire nostre, perciò anche un po' di mia sorellina, in quanto quello che è mio è anche suo. Hai di nuovo messo il latte nella lavatrice e le canottiere nel frigo. La lavatrice lava e non conserva, mentre il frigo non lava, dato che è fatto per conservare alimenti e bevande. Le canottiere non sono alimenti, perché le vuoi conservare? Io penso che il frigo non è che una scatoletta d'inverno in conserva. Penso anche alla nostra ultima lite, ricordo tutti i particolari. Avevamo appena incominciato a mangiare. E dopo la pasta che cosa c'è? T'amo più bove emite un sentimento. E che? T'amo più bove emite un sentimento, Carducci. Io ti ho chiesto che cosa c'è dopo la pasta. Bistecca di manzo. E allora di bistecca? Che accidenti c'entrano le poesie con il pranzo? Eleuterio, sto cercando di culturizzarti. Rispondendoti con il bove di Carducci, ti dico il menù e ti apro la mente alla poesia. Io ti vorrei aprire la testa per vedere che c'è dentro. Non incominciare con le minacce. La mia sorellina dice che bisogna culturizzare le masse. E tu per me rappresenti la massa e anche per mia sorella. Tua sorella? Ma cosa fai? Passi dalla poesia alla preistoria? Ma passami le patate! Solanum tuberosum, originaria della montagna del Perù, introdotta dagli spagnoli in Europa verso la fine del XVI secolo, in Italia introdotta da Vincenzo Dandolo. E chi se ne... Ma cosa vuoi che me ne importa? Per me le patate sono un contorno e basta. Sei un ignorante. Oltre ad essere un contorno, possono diventare fecola. Se non la smetti tu, pur non essendo patata, se non in senso intellettuale, puoi diventare più re. E passami l'acqua. Dimmi la formula chimica. Passami l'acqua. H2O, ignorante, non sai la formula. Io so una formula sola. Ma la posso dire solo dopo averti dato in testa la bottiglia dell'acqua. Pace all'anima tua. Eleuterio, smettila di minacciare o prendo il telefono. Inventore Meucci, nato a Firenze 1808, morto a Clifton 1889, e chiamo mia sorella a casa. Tua sorella non può essere a casa. Le autogru sono parcheggiate nell'autoparco del comune. La mia sorellina non ha un'autogru. Hai ragione, quando si veste di rosso è un autobotte, passami una pesca. Con quale accento, Eleuterio? Con un tipo di accento potrebbe essere giallona, con un altro accento potrebbe essere di beneficenza, decidi. Ho deciso, fai attenzione. Lo vedi questo? Questo è un trombone, corto archibugio che cominciò a usarsi al principio del secolo XIX nella difesa delle fortezze, dai marinai nell'arrembaggio e più tardi nel brigantaggio. Ancora adesso, dato che lo tengo in ordine, può sparare e io ti sparo. Della polvere da sparo ne è detto inventore un monaco di Friburgo. Posa quell'arnese, Eleuterio. Posa quel fucile, io... Il fucile è un derivato dell'archibugio, che sarebbe questo, con il quale io farò un botto e annullerò il vincolo di parentela che mi lega a tua sorella. Metti giù quel coso. Aiuto, assassino, mettilo giù. O me ne torno da mia sorella, anzi ci torno subito. Ricordo tutto perfettamente, ma quando rientrerai farò finta di niente. Ciao. Ciao, dato che domani è Vostra Eccellenza che mi sta in Cagnesco per quei pochi. Sì, dato che domani è Sant'Ambrogio, pensavo che bisognerà fare gli auguri a...